Cambiare completamente le abitudini è una scommessa. E finché non ci sei dentro, non puoi sapere come reagirai. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Le 16, 7 minuti, questa è Radio 24. Sono Matteo Caccia e sono qui. In questi giorni ho scoperto che ci sono un sacco di stranieri che ascoltano questo programma. Cioè, un po' già lo sapevo e un po' lo immaginavo. Anche perché spesso le persone che vogliono imparare l'italiano ascoltano la radio proprio per perfezionarlo. Oppure no, oppure semplicemente l'ascoltano perché gli piace. O non l'ascoltano perché non gli piace, insomma, comunque, come tutti quanti. Comunque sia, e per qualunque ragione ascolti questa radio o questo programma, oggi vorrei parlare proprio con gli stranieri che vivono in Italia. Quelli che sono arrivati in Italia un anno fa, 10 anni fa, 40 anni fa. Vorrei sapere da loro come è andato quel viaggio. Il viaggio che hanno intrapreso per arrivare fino a qui. Nei dettagli però. Come hanno organizzato il viaggio, con che mezzo hanno viaggiato, se in aereo, in auto, in nave, in moto, in treno, a piedi. Mi piacerebbe sapere che cosa pensavano ad esempio di questo paese quando erano lontani e come l'hanno trovato ora, che sono qui, quando ci sono arrivati. Che cosa è accaduto durante quel viaggio ad esempio. Vorrei parlare con loro oggi. Vorrei parlare con quelle persone che sono partite da lontano, dall'America, dall'Africa, da ogni angolo del Mediterraneo, dal nord Europa, dall'est o dall'ovest dell'Europa, dall'Australia, dall'Asia. Ci sono dei dettagli in una partenza, in quel viaggio, che rimangono impressi nella memoria di chi quel viaggio l'ha fatto. Ecco, oggi mi interessano proprio quei dettagli. Se volete raccontarmeli, io sono qui. E il numero è quello, è 80024 0024 349 238 6666. Spesso hanno chiamato persone che vivono in Italia, che non sono italiane e che vivono qui per i motivi più disparati, che poi di solito sono sempre due, per amore e per lavoro sono venute qui. E oggi vorrei parlare esattamente con loro. 80024 0024. Che siate arrivati qui in maniera serena, che siate arrivati qui in maniera meno serena, che voleste arrivare fino a qui o che non voleste arrivare fino a qui e che ci siete e qui alla fine in un modo o nell'altro ci siete rimasti. Comunque sia, avete fatto un viaggio per arrivare fino a qui. Ecco, vorrei sapere proprio di quel viaggio lì. 349-238-6666. Ve lo chiedo perché in questi giorni si parla di viaggi in casa mia, dalle mie parti, e quindi sto cercando un modo per esorcizzarlo, quel viaggio. Non è il mio, ovviamente, insomma, se ascoltate questo programma avete capito di che cosa sto parlando e comunque più tardi entrerò nello specifico. L'anno scorso, mi sono ricordato prima che l'anno scorso, durante Vendo Tutto, alla fine di Vendo Tutto, avevamo fatto una sorta di concorso in cui avevamo chiesto alle persone che ascoltavano il programma e che volevano partecipare di inviarci un racconto in cui parlavano di un oggetto. Tra questi racconti, uno molto bello che arrivò e che infatti arrivò in finale e la protagonista e l'autrice di questo racconto venne quindi a Riva del Garda per partecipare alla finale del concorso che si chiamava Vendo Anch'io, è una ragazza ecuadoregna che si chiama Isabel. Isabel mi scrisse questo racconto che riguardava la sua valigia, che era la valigia che lei aveva comprato per partire, e in questo racconto c'è esattamente il racconto di quel viaggio. Era l'11 settembre del 1995, quando finalmente arrivammo a Milano. Ero una turista, ma presto sarei diventata clandestina. Avesse potuto parlare, la mia valigia avrebbe detto alla polizia di frontiera che la sua proprietaria era venuta per restare. Mi sono caricata su un taxi e vidi per la prima volta Milano. La ricordo piena di prostitute e di trans. Era l'una di notte. Arrivata all'appartamento dove dei cugini mi aspettavano, la prima cosa che mi dissero al citofono furono queste parole: prendi di peso la valigia e togli le scarpe perché altrimenti i vicini si arrabbiano. Io non so perché, ma piansi appoggiando la mia testa su quella valigia. Lei poi mi accompagnò quando andai a lavorare come badante in una famiglia della Brianza. E anche quando ho smesso di essere clandestina e diventata extracomunitaria, tornai a Milano, sempre come badante. Lei ed io siamo andati al mare, poi in montagna, ed era bello trascinare questo trolley. Ed è stato ancora più bello quando nel 2011 lo trascinai per le strade di Parigi. Mi ero sposata. Per la prima volta da quando l'avevo comprata ero felicissima di averla riempita. Dopo 2 anni tornai in Ecuador, la mia terra, con mio marito. Io ero cambiata e con me la mia valigia. Anche lei lo era. Era partita con poca roba dentro e ora tornava con tanti regali. 800240024. Magari non proprio nei dettagli in questo modo, perché non è un racconto, perché non lo scrivete e quindi non è, come dire, non può esserci questa ricchezza di dettagli. Però se avete voglia di raccontarmelo, se volete dirmi com'è stato proprio quel viaggio lì, il giorno in cui siete partiti, che giorno era, che cosa è successo a casa vostra, come avete raggiunto il posto da cui siete partiti, e poi tutte le ore del viaggio, se è durata un giorno, una notte, se è durato un mese, qualunque sia stato il viaggio che vi ha portati fino in Italia, 800240024 oppure 349-238-6666. Come i messaggi che mi sono arrivati sul profilo Facebook del programma di Nunzia, credo che si dica perché è argentina, mi sono mossa nel 2002, flight all'Italia, partenza a Buenos Aires, arrivo a Milano. Appena arrivata all'aeroporto ho preso un taxi abusivo. Ma perché ti sei sbagliata, spero, Nunzia, non perché proprio hai scelto un taxi abusivo. Voglio quello senza la scritta. Ho preso un taxi abusivo e quindi dall'inizio ho capito che mi sentivo a casa mia, dal primo momento. E poi Marie-Georges, fu nel 95, volo Parigi-Roma, che portava parecchio ritardo, era per un fine settimana, 15 anni dopo sono ancora qui. Antonio, qui si può scrivere un racconto che sembra più fiction che realtà, però Antonio non ce la racconta. E poi Walter invece è italiano, però lui dice che conosco tanta gente che viene dall'est Europa, qualcuno lavora con me, il loro viaggio è iniziato perché non riuscivano a vivere in modo decente là al loro paese, e dopo un sacco di sacrifici ed umiliazione sono riusciti a farsi a far laureare i figli e dire che il loro viaggio era iniziato dentro un cassone di un tir, qualcuno addirittura sotto la scocca per passare la frontiera. Wow. 800240024 349-238-6666. Anche oggi, per quanto mi riguarda, si parla della preparazione ad una partenza. Natalia ormai conosce Tbilisi come le sue tasche. Ho fatto così anch'io, Ho fatto così quando mi preparavo per la prima volta per andare a New York. Ho consultato mappe, ho studiato libri, usato Street View, chiesto ad amici e consiglieri. Insomma, ho fatto in modo da non arrivare e trovarmi completamente in terra straniera. E così ha fatto Natalie. Certo, con Tbilisi è più difficile, però si può fare. E poi ci sono anche le persone che partiranno con lei e che una certa esperienza già ce l'hanno. Ci sono cose però che non si possono chiedere e altre che non si possono neanche immaginare, che possono sembrare cose banali, ma non lo sono. La cucina, per esempio. Cosa si mangia là? Non è Londra, non si trovano i ristoranti di tutto il pianeta. Ci saranno quei due o tre piatti nazionali, no? E se non mi piacciono, a un certo punto mi ha chiesto Natalie. E lì ho capito che lei stava avendo i primi dubbi. E quindi io mi sono messo a rassicurarla, ma figurati, certo che ti piaceranno, ti abitui. Poi ho cominciato a chiedersi come sarà la sua casa, se ne avrà una, come sarà fatto il letto, se useranno i cuscini come piacciono a lei, quelli bassi, come sarà il clima, umido, secco, freddo, caldo. Ci sarà la primavera già. E la gente, come sarà? Sarà amichevole? Sarà problematica? E in che lingua ci si potrà parlare? Cosa abbiamo a spartire con loro, ad esempio? I georgiani, voglio dire, sono lontani? Non ne ho mai conosciuto uno. Per comunicare ci vuole un terreno comune, oppure nessun terreno, ma molta curiosità. Natalie fortunatamente è curiosa, ma è anche un po' spaventata. In effetti è partita in quarta, tutta baldanzosa, quando ha saputo di questa possibilità, però adesso che ci ripensi un po', secondo me è una cosa sana. Cioè, è giusto, no? Avere dei dubbi. Altrimenti rischia di andare incontro a una delusione o a un fallimento. Di certo sarà tutto diverso da come è adesso. E forse sarà meglio, perché farà qualcosa che la rende fiera e la fa sentire utile. Però non sapere immaginare una quotidianità è dura. Cambiare completamente le abitudini, no? È una scommessa. E finché non ci sei dentro, non puoi sapere come reagirai. Come quando sono andato in barca per la prima volta, più o meno. Sapevo com'era fatta, dove era il bagno, le scomodità che avrei incontrato, ma non sapevo come mi ci sarei sentito. Potevo studiare tutti i libri del mondo, ma non avrei mai immaginato che cosa sarebbe successo. È così. E non c'è niente da fare. Io ieri ho incoraggiato Natalia a parole, anche se sapevo che serviva solo a non farla sentire sola e a farla sentire un po' più forte. Ma sapevo che i suoi timori e i suoi dubbi erano fondati. Poi, mentre parlavamo, seduti in poltrona, è arrivato Samir. Mi ha fatto anche prendere un colpo, perché anche lui non è che mi ci sono proprio abituato così facilmente, no? A volte mi dimentico che sia ospite. E però appena l'ho visto ho pensato, ecco uno che due parole sul cambiamento le può dire. E quindi gli ho chiesto com'era andata di quando aveva deciso di venire in Italia. Com'era stato il viaggio. Insomma, quelle cose che alla televisione non si dicono. Le cose vere raccontate da chi le ha vissute. E Samir non si è fatto pregare. Samir è giovane, ma in Tunisia ha già fatto almeno 3 mestieri. Ha fatto l'ingegnere, l'animatore in un villaggio e l'uomo delle pulizie. Ama il suo paese, ma dice che non c'è democrazia e che lui merita di meglio. Che un giorno ci tornerà, ma era da tempo che stava pensando di andarsene. La sua fortuna era abitare in una città di mare e avere amici svegli. In Tunisia guardano la TV italiana e sanno che siamo facili da raggiungere. Tutti vivono con l'Europa in testa. Noi siamo la loro America. Però non sono mica scemi che vogliono finire affogati. Per cui, quando decidono di muoversi, lo fanno in sicurezza. Almeno, così mi ha detto lui. Lui e alcuni suoi amici avevano messo via i soldi necessari per pagarsi il viaggio. Sono alcune migliaia di euro e non è uno scherzo. Per loro sono anni di lavoro. Ma le cose andavano fatte per bene. E si sono rivolti alle persone più affidabili. E non ai primi briganti. Hanno scelto il mese giusto, la barca migliore e contrattato la tariffa. Proprio mentre la Tunisia provava a cambiare, loro hanno deciso di andarsene. E io poi mi immagino tutti i clandestini ammassati su barconi, con un motore da buttare, no? Che indossano una maglietta con un pezzo di pane in mano. Invece loro no. Loro si erano organizzati come io farei per una gita in montagna. Vestiti adeguati, zaino coi viveri, cellulare, caricatore, iPod e una maglia di Seedorf, perché porta fortuna, dice Samir. Samir, come molti della sua generazione, è milanista, così mi ha detto lui. Questo un po' mi disturba, però io lo faccio continuare. Samir racconta delle 20 ore passate in mare, a farsi coraggio l'uno con l'altro, perché è vero che erano abbastanza tranquilli, però stare in mare aperto non è particolarmente bello, soprattutto se devi arrivare in un posto dove non sei desiderato. La traversata è nata senza problemi, mare calmo e nessun inconveniente. 2000 euro spesi bene, mi ha detto. E poi la storia che conosciamo, Lampedusa, il campo, la gente, il mistero di cosa accadrà, poi. Però con la forza almeno di avere deciso del proprio destino. A Samir brillavano gli occhi mentre mi raccontava il viaggio. E del dormire per terra, del fare la coda per il bagno ogni mattina, non ha nemmeno fatto cenno. Perché il viaggio dava senso a tutto. Il resto erano particolari inutili. Alla fine Samir mi ha detto, sono stato fortunato. Io lo so e lo sa anche lui. E sa anche che potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro. Però lui è talmente luminoso mentre parla che Natalie improvvisamente si scuote dai dubbi e si apre in un sorriso. Lo abbraccia e poi corre in camera a piangere perché lei è una che non si vuole fare vedere mentre è debole. E Samir mi chiede se è colpa sua, se lei piange e quindi si dispiace. Io gli dico che no, anzi che lo ringrazio perché raccontare la propria storia è difficile, ma serve a chi la ascolta. Qualsiasi storia sia. Perché il confronto alla fine è la cosa che conta nella vita. E Natalie ne aveva bisogno per farsi coraggio. E lei il coraggio lo esprime con le lacrime. È fatta così. Insomma, Natalie stava piangendo di coraggio. Samir non so se l'ha capito, però ha buttato lì un sorriso e ha alzato le spalle. Io dentro di me ho pensato che a volte le cose ti capitano così, senza che tu lo voglia, mentre sei seduto sulla poltrona di casa tua. E io sono fortunato per questo. Gli ho chiesto se voleva un tè. E poi alla fine ho sperato anche che rimanesse ancora un po' sto Samir. Anche se alla fine a sentirlo parlare mi sa che Milano gli sta stretta. Natalie intanto era tornata da noi, con gli occhi rossi, sorridente, e ci guardava. We get together, oh we get together, except it's always better when there's feelings involved. If what they say that nothing is forever. Oh, the what makes you love the exceptions. Why are we so in denial when we know we're not happy here? Questo pezzo, come tutti i pezzi che mettiamo, lo ripeto sempre, li trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Io sono qui. Però, visto che questo è un pezzo che ogni volta che lo mettiamo ci chiedono che cos'è, è una versione acustica di Eia, è una canzone che sicuramente conoscete nella sua versione originale. E lui si chiama Obadiah Parker, è un tizio con un barbone americano, credo, che in realtà non so nemmeno se abbia fatto un disco, ha fatto solo un live, forse. Questo è live, il Tiziano. È sempre lui che sceglie le cose. Magari dopo lo carichiamo il video anche sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, Io sono qui, così lo trovate. E se ci cliccate, che tra l'altro se ci cliccate manca poco ad arrivare a 5.000, giusto? Sapeva come... Bocchino c'ha 6.000 fan, ragazzi, cosa vi devo dire? Devo dire qualcos'altro. Bocchino c'ha 6.000 fan e Io sono qui ne ha 4.960-65. veramente, basta un cliccare su mi piace. Ma anche basta. Ciao, mi chiamo Nureddin. Il mio viaggio verso l'Italia è stato nel 1998 con un pullman da Rabat, Milano, viaggio di 50 ore. Nel lontano 1990, ottobre, scalo di Roma. Uscì dall'aeroporto alle 22.30. A mezzanotte della stessa notte fu applicato il visto per extracomunitari. È andata bene. Adesso ho figli e lavoro per conto mio. Grazie a tutti. 1994, con un gommone dall'Albania. Adesso nel 2011... tra un po' divento cittadino italiano. Ciao da Mario. Sono arrivate però un sacco di telefonate e quindi direi che è il caso di prenderle tutte. Andiamo da José, da Milano. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, José, detto giusto? Sì, detto giustissimo, sì. Senti, raccontami, sei arrivato da dove? Io sono arrivato dall'Argentina, all'epoca del generale Videla, sono scappato dall'Argentina, e per cui è stato un viaggio complicato, durato... qualcosa in più di 2 mesi. Come in quante tappe è stato il viaggio? Prima è stato là a Buenos Aires, la perdita di tempo per avere i documenti, naturalmente non con i documenti miei ma con un altro nome sono uscito con mia moglie, con la bambina di 4 mesi, e siamo usciti attraverso il Brasile, prima attraversando il fiume in Iguazú. Com'è che si attraversa un fiume? Con una barca o a piedi? No, proprio? All'epoca c'era un battellino. Ok. Adesso c'è il ponte. Ah, ok. Quindi avete fatto Argentina, Brasile, poi dal Brasile? Dal Brasile la nave, dal Cristoforo Colombo, l'ultimo viaggio da Cristoforo Colombo. Il 19 aprile del 77 sono arrivato a Genova. Scusa, quanto è durato il viaggio in nave? Il viaggio in nave 16 giorni. 16 giorni. E avevate una cabina oppure erano... Eravamo... l'ultimo al fondo, l'ultimo bucchino della nave, no? Una cabina, sì, per forza, però piccolissima. Senti, in 16 giorni su una nave che cosa avete fatto? Avete aspettato semplicemente di arrivare? Sì, logicamente eravamo nervosi perché non si sapeva che cosa poteva fare. E poi scusami, e poi quando siete arrivati a Genova cosa avete fatto? Avete chiesto asilo? Siamo andati a Roma perché avevo un numero di telefono in Roma, ho chiamato questi compagni di Roma e poi da lì mi sono informato. Ho capito. E ho deciso di restare in Italia perché avendo i nonni italiani potevo dimostrare che sono italiano, così. Senti José, però, e poi ti saluto perché devo dare la borsa, però la cosa è che tu sei rimasto 34 anni in Italia e sabato 16 aprile torni a casa. Esattamente, definitivamente. Definitivamente. Con grande piacere. Tornerò ogni tanto a trovare gli amici, verrò a fare le ferie qui, però torno. Torni con tutta la famiglia o solo con tua moglie? No, solo con mia moglie, mia figlia ormai è qui, anche lei è molto legata all'Argentina, ma ha fatto la sua vita qui. Immagino. Adesso inizierò la mia terza vita, dico io. E allora? La prima vita mia era l'ingegneria sanitaria, questa seconda qui in Italia è stata l'informazione, ho lavorato al Corriere della Sera, Radio Popolare, altre cose, sì. E poi dopo dei diritti umani mi sono occupato in questi anni e adesso la terza vita non so cosa farò, vedremo. José, allora io ti faccio un sacco di in bocca al lupo per la tua terza vita e fai buon viaggio. Grazie. No. Ciao, buona giornata. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao. E sto qui. Nella foto di oggi siamo in una casa. È una casa con le pareti blu, azzurro direi. e al centro della foto c'è una ragazza seduta su una sorta di chaise longue bianca con in mano una chitarra. Ha un bel viso, ha i capelli scuri, un vestito rosso, un paio di jeans, imbraccia questa chitarra classica o acustica e fa un, direi, è un re minore quello che sta facendo. Guarda fissa in camera, c'è una mensola piena di libri, un altro comodino pieno di libri, e sul manico della chitarra c'è scritto Pordenone. C'è scritto qualcosa. Elisa Fabbri, 36 anni, di Forlì. Un mutuo da pagare, un lavoro sicuro, un buon stipendio, ma nel cuore la voglia di realizzare quel sogno nel cassetto che mi accompagna sin da quando avevo 16 anni. Io ci provo. Io sono qui. Anche questa foto la trovate sempre sul sito di Radio 24, alla pagina di Io sono qui. Si parla di viaggi oggi, 800 24 0024, viaggi per arrivare fino a qui, per arrivare in Italia. Poi ci sono dei messaggi. Fabiana mi scrive: caro Matteo, sai, vorrei tanto poter conoscere Samir, mi ha colpito molto, mi piacerebbe poterlo conoscere. Se lui fosse single sarebbe bello poter uscire insieme e conoscersi. Fabiana, guarda, ti prego, non cominciamo, perché altrimenti quello mi comincia a girare come un motore a vuoto. Matteo, oggi sono felice perché finalmente anche la mia Candy ti ascolta. Lei è dominicana, non ti chiamerà mai perché è timida, ma forse potrò dirle quanto la amo. Grazie Andrea, e sono messaggi. Matteo, basta con questo buonismo ipocrita, ne abbiamo tanti di Samir e di nazionalità italiana da aiutare, perché non ne parli mai? Marco, guarda, credo che tu abbia fatto due errori in questo messaggio. Il primo è molto semplice ed è che io non racconto le storie a caso, ma racconto quello che mi capitano addosso, quindi mi capita Samir in casa e la racconto. La seconda è che proprio sei fuori tema, nel senso che non si parla di nazionalità oggi, si parla di viaggi. 349-238-6666. Andiamo subito da Ahmed a Milano. Pronto Ahmed? Bravo, l'hai pronunciato bene. Pronto, ciao Matteo. Come stai? È un piacere comunque parlare con lui. È un piacere anche per me. Da quando sei arrivato in Italia? Dall'88. Raccontami del viaggio. Viaggio è partito dal Marocco, sì? Algeria, Tunisia, sì? Partenza col traghetto, uh-huh. Arrivo a Trapani, Palermo, Torino, Milano. Palermo-Torino come, scusami? In treno? In treno. Ok. Poi da Torino a Milano, sono qua ancora a Milano. Quanti anni hai? Io ne ho 42. E che cosa fai? Io faccio il magazziniere. Perché? Per un'azienda? No, per una ditta, sì. Per una ditta. E da, sono sul muletto adesso, questo ferro. Sei sul muletto in questo momento? Assolutamente. Ma c'hai quello splendido pomello con cui riesci a girare il volante? Assolutamente. Che invidia. Hai una cadenza che è tra il lombardo e il piemontese che fa molto ridere. Ahmed, ti ringrazio molto per il tuo racconto. Ciao, buona giornata. Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo a Padova, da Oguzie. Pronto? Sì. Sì, pronto. Ciao, è giusto Oguzie? Sì, Oguzie, scusami, che cosa significa? È un nome locale, non significante. Ah, insignificante, non so, ok. Neanche tradotti tanto. Più che altro mi conosco più che altro con JJ. JJ. Juventus Juventus, hai capito? Da dove arrivi? È un viaggio di tre tratto, Nigeria, Egitto, Grecia, Brindisi. E quanto è durato? È durato quasi 10 mesi, un anno insomma. Sì, ma tu c'hai un accento padovano che fa paura però. Ormai dopo questi anni, caro. Da quanto? dal 91 sei qua? Dal 91, sono 19 anni, da 19 anni trascorso. Sì. Senti, ti ricordi quanto ti è costato il viaggio? Sinceramente non mi sto costava poco, per quello che ho durato abbastanza soltanto a fare tratto di qua e tratto di là. E quanti mezzi hai utilizzato? E prima da Nigeria, Egitto e in aereo, sì. Dall'Egitto, Grecia e nave, da Grecia e Brindisi sempre nave. Ah, ok. E poi adesso mi sono un po' sistemato con famiglia, figlio che è meraviglioso, con mia moglie che anzi è stato un amore plateale, perché frequentavamo lo stesso gruppo di amici. Scherzando, ridendo, abbiamo scambiato i dati e fatalità, siamo nati lo stesso giorno, lo stesso mese. Senti, e dopo è diventata mia moglie. Senti, ti ringrazio molto, buona giornata. Ti ringrazio. Ciao. Te, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo a Forlì da Silvia. Pronto Silvia? Pronto? Devi abbassare la radio però, altrimenti si sente la mia voce. No, sono le mie figlie che sono in macchina. Ah, ok. Scusami. Senti, sono arrivata in ritardo a scuola per questa cosa. Sei arrivata in ritardo perché stai parlando con me? Perché mi sono scordata proprio della scuola. Ah, perfetto. Quindi ci sono due povere bambine. Due? No, una mia e una in prestito. Benissimo, proprio un delirio, abbiamo perso figli di altri. Silvia, raccontami. No, non è la prima volta, mi capita anche molto spesso. Raccontami da dove sei arrivata, come e quanto tempo fa. Io sono arrivata dall'Argentina, non sì. sono stata così originale, neanche così pesante come questo signore che ha dovuto scappare. Perché sì. in realtà mio marito ha vinto una borsa di studio, okay. il quale era, ci siamo buttati a fare questa cosa che era praticamente impossibile, perché da 2000 persone che si erano presentati lui è arrivato secondo, per quello dopo 2 anni abbiamo dovuto partire. Ho capito. Siamo stati a Venezia prima e pensando di fare questo studio per 2 anni, una cosa del genere, e tornare. Dopo l'Argentina era più in crisi, c'erano più problemi. E sei qui da quanto alla fine? 22 anni. 22 anni. Silvia, senti, ti lascio andare a prendere tua figlia e la sua amica e ti ringrazio molto. Grazie. Buona giornata. Ciao, grazie. Andiamo a Rimini da Vasile. Pronto? Sì. Vasile, sì, pronto. Giusto? Sì. È giusto. Ciao, come stai? Bene, tutto bene, grazie. Anche voi. Senti, da dove sei arrivato esattamente? Dalla Moldavia. E con che mezzo? Un po' con pullman, un po' con treno, così, un po' e poi più a piedi. Come a piedi? In che senso a piedi? Cioè a piedi, hai fatto dei pezzi lunghi a piedi? Sì, attraversando un po' di boschi, un po' così. Ma scusami, eri da solo o eri con qualcuno? Cioè la strada come la trovavi? Ah, con la carta. Ah, avevi una cartina proprio. E quanto è durato il viaggio? 2 settimane più o meno. Scusami, sei partito da dove? Dalla Moldavia esattamente? Qual era la città? Dalla Moldavia, dalla Caun, se lo sa. E sei arrivato fino a? Cioè, la qui in Italia. No, no, certo, quando sei arrivato in Italia avevi un appoggio, immagino, da qualche parte. No, non conoscevo nessuno. Eravo io con un amico e allora abbiamo attraversato Romania, Ungheria. E poi siamo a Slovenia. Cioè come due turisti che vanno a caso, che non sanno bene dove andare e si avventurano. Cosa fai adesso nella vita, Vasile? Adesso sto bene, mi sono sistemato, sono sposato e faccio cartongesso. Va bene, Vasile, ti ringrazio molto, buona giornata. Arrivederci. Ciao, grazie. Andiamo all'ultimo, dai, no, l'ultimo. Andiamo da Clodi, che è arrivato col motoscafo. Pronto, Clodi? Sì, ciao. Ciao. Senti, sei arrivato col motoscafo tu? Con scafo, sì. Con gli scafisti? Nel 95. Nel 95. Esatto. Quanto è durato sto viaggio? Due o tre orette, perché sai, a Otranto Valona sono 60 miglia, quindi 100 chilometri più o meno. 60 miglia, quindi forte andava sto motoscafo? Sì, andava forte. Senti, è un'avventura. Lo immagino. Mi dici, ti ricordi quanto hai pagato per arrivare fino a... 500 mila lire. Era ancora in lire... 500.000 lire. Clodi, ti ringrazio moltissimo, ti auguro buona fortuna per tutto. Buono. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie. Adesso vi leggo un pezzettino da un libro che parla proprio di un viaggio molto lungo. La mia famiglia è felice. Mi ha dato i soldi per partire. 100.000 naira. Sono circa $900. Mio padre ha venduto tutto quello che c'era in casa. Il motorino, il videoregistratore, la TV, il frigorifero. Per loro sono un investimento, perché se trovo lavoro in Europa, poi li posso aiutare. Sanno che devo attraversare il deserto, il mare... No, questo non lo sanno. E sanno quanto sia difficile. Mio padre, quando l'ho salutato, mi ha detto «Stai attento, se sei in cattive condizioni, faccelo sapere. Pregheremo per te». Mi ha anche dato una Bibbia, perché mi protegga. Quando l'ho salutato erano le 5 del mattino. Io volevo fare il pastore della mia parrocchia, ed è quello che voglio fare in Italia. Posso guidare i camion e fare il pastore della mia gente. So che in Italia i preti sono molto rispettati. Sono le 16.44, si chiude qui anche questa puntata. Sono arrivati altri messaggi, uno in particolare abbastanza divertente. Paolo, è scesa dalla Skoda anni 80 per la raccolta delle mele, occhi verdi come la campagna, bionda, tanto bionda e due tette da capogiro. Ho detto, è mia, abbiamo un figlio adesso. E lei non dimentica ancora quel viaggio, oltre 1000 chilometri su una macchina impressionante e sopra in 5 a 60 all'ora. È una donna fantastica e lei ringrazia sempre il papà che li ha liberati dal comunismo. Cioè, il papà li ha liberati dal comunismo? Il Papa, perdonatemi, il Papa che li ha liberati dal comunismo. E poi anche Sergio mi scrive: non ho navigato coi barconi, non ho attraversato le montagne, ma ho dovuto affrontare le discriminazioni e l'indifferenza arrivato dal sud Italia al nord Italia. Grazie a Stefano D'Andrea, Tiziano Bonini, a Paulino Corleoni e a Viola Bottoni. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?